Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Oscar, eccoci. Ci siamo. Ci siamo. Oscar oggi è tutto contento perché ha trovato un... come dire, una notizia che è quella che ho letto in rassegna stampa sull'inchiesta della sanità, la possibile tangente. È uno spaccato, ha mandato in solo Italia. Ma no, perché è un testo teatrale, capisci? È Totò, Peppino De Filippo. C'è dai, tutto prima dentro. I santi, prima i santi. Cioè, sì, prima poi, i santi poi e poi spieghiamo. I diavolacci, per così dire. Oggi Sant'Eriberto, vescovo, sì, però mai canonizzato. Ma il problema, sapete, era un giovanissimo cancelliere a 25 anni di un imperatore, Ottone III, che lo fa arcivescovo, e dopodiché quando con l'imperatore successivo Enrico II, quello che di Sassonia, decade, e allora pensano di farlo santo. Io, come vedrete, a volte sono un po' critico su questi santi di grandi famiglie regnanti o di grandi protégé dei re, però capisco, la Chiesa è un'istituzione e non può far santi solo San Giovanni Bosco, a quelli invece che davvero hanno passato una vita edificante a insegnare agli altri come assistere i deboli, gli anziani, i carcerati, i malati. Auguri anche a chi si chiama Agapito Eusebia. Agapito, io ne conosco uno. Ma pensate, conosciuto uno tanti anni fa. Che sta però bene, tutto era, posto, no, era perché era il papà di un mio amico. Scherzo, ed era di origine greca, quindi per questo era Agapito. Cosa ricordare oggi delle tante vicende storiche? Che nel 1898 a Torino nasce l'associazione football, che poi diventa la Federazione Gioco Calcio. Non si chiamava Federazione Gioco Calcio, ma era un po' anglofona all'inizio, però nel 1898. Che nel 1945, quando era del tutto inutile oramai, alla fine di marzo del 1945, i britannici spianarono il 97% della città tedesca di Würzburg, facendo 5.000 vittime in due sole ore. Questo per ricordare che noi la guerra in Europa l'abbiamo combattuta molto ferocemente, anche se adesso tutti sembrano aver dimenticato, e non è successo 300 anni fa. E nel 1978, ovviamente, il 16 marzo, il rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse con i 5 agenti della scorta uccisi. Oggi compie gli anni una giornalista che io vi svelo un segreto, cari Topolini in ascolto, carissima carissima ad Alessandro Mina, Franca Leosini. Ma oggi è il compleanno della capito, Franca, ma non mi dovevi aprire il cuore, lo so, così, io lo so, perché ci sono stati lunghi dibattiti tra me e Alessandro su questa. La Leosini esercita Franca, un suo... Franca è una grandissima per me. Perché in effetti riesce a tirar fuori da questi personaggi, a volte oltre ogni possibilità di classificazione, queste toghe, questo ammiccare, questo dietro l'imperatore turbabile borghese aspetto della Leosini si cela una capace non di rimescare Franca Leosini. Non te la tocco proprio, non vorrei che adesso immediatamente scendiamo nei livelli di questa meravigliosa storia da cui però bisogna cominciarla. Deborah da Silva Sampaio. Così, ragazzi. Dai. Allora, Oscar è stato colpito da questa notizia. Allora, la situazione è che c'è un'indagine riguarda l'ASL di Roma e presunte mazzette, eccetera, e anche indagato Angelucci, il delle cliniche, il parlamentare, esatto, l'editore. Ma c'è una vicenda nella vicenda. C'è un magistrato che è accusato di il magistrato, tra l'altro, che ha scritto l'ex la sentenza, relatore della sentenza contro quella, Berlusconi oggettini, per cui Berlusconi decade, eccetera, eccetera. Esatto. Quindi, insomma, un censore in nome della legge dei costumi pubblici, ovviamente. Questo magistrato è accusato di avere avvicinato un collega della Cassazione per aggiustare un processo degli Angelucci. E in cambio cosa ha chiesto? Per favore, avrebbe chiesto se in cambio mi fate rifare le tette alla mia amica brasiliana. Deborah De Silvo Sampaio. Siamo... il relatore contro Berlusconi. E gliene deve far fare sì, dal medico, perché così paga lo Stato, cioè noi contribuenti. Deborah De Silva Sampaio. Io sono garantista. Tutte cose da provare. Tutte da dimostrare. Magari non si chiama Deborah, ma Mario. Magari si chiama Mario. Magari non è successo, si chiama Mario. Però io rido, ma non perché stia deridendo gli indagati. Perché sembra scritto la Totò e Peppino un giorno in pretù. Cioè, sono le vicende italiane che vanno al di là della realtà. Poi sono la realtà. Perché poi bisogna dire che io e Manera anche l'altra indagine Woodcock di ieri, a leggerla fa venire il mal di testa. Capisce perché io e Leonardo Manera abbiamo inventato, anzi Leonardo Manera, io Platone, gioca sulle notizie vere o verosimili. Perché siamo al di là, no? della verosimiglianza apparente. E invece no, la realtà... invece forse è vera, forse è vera. Per esempio, altra cosa, insomma, sì. Ho fatto una scelta musicale anch'io. Sì. Te la ricordi questa? Ah, Battiato. Eccola, questo pezzo si entra mettere. Ma scusate, il cari maestro, ascoltatori, ragazzi. Dopo Bob Marley viene lui. Per carità di Dio, il derviscio rotante. Però detto questo, tu pensa un po', l'11 di gennaio la Corte Costituzionale abbatte il referendum, quello su cui la CGIL puntava tutto, quello sull'articolo 18, l'abbiamo parlato ieri, eccetera, eccetera. E adesso, malgrado sia rimasto con due voucher, eccetera, eccetera, il governo e la maggioranza dicono: abroghiamo tutto, hanno una paura fottuta di fare il referendum. Sul ponte sventola la bandiera. Beh, la Camusso ha vinto, ragazzi. Cioè, e io non so, cioè, se sono abbastanza. Togliere senza i voucher senza colpo ferire, capito? Senza colpo ferire. Da quelli che fino a ieri la deridevano, cioè, tu, vestito del passato. Proprio così. Beh, ormai sul PD, questa è la canzone: sul ponte sventola la bandiera bianca. Stare calmi, indifferenti. E vedi, infatti, lo dice anche lui. Il maestro prendeva anche lui. Allora, noi però vogliamo introdurre un argomento dando il numero ai nostri di ascoltatori. Deborah, non ce l'abbiamo, peccato. Il numero è il solito 800 24 0024. Allora, vogliamo parlare, oggi sul Corriere si racconta che in Campania con il presidente De Luca, e già sorridi, si parla di possibile condono. E anche lì Totò Peppino, siamo sempre lì. 70.000 case abusive. 70.000 case abusive condonate. No, però devo dire, De Luca ha sempre detto, anche ti ricordi qui, sì, quando no, si candidò in campagna, glielo riconosco, lo ha sempre detto. Ha detto: cosa facciamo di tutti questi case abusive? Condoniamole. E il problema è che lui non lo dice solo, lo fa. La parola per correttezza, se no sarebbe anche lui condono. No, non è da usare, certo. Lui dice: magari prendiamole in concessione da parte delle istituzioni e ridiamo quelle che sono le case, ridiamole in fitto alle persone che già le usano, cioè tutto un escamotage per renderle sane, da abusive a sane. Cioè, come si chiama questo termine? Non so, sta facendo delle perifrasi. Perché non bisogna usare condono? Perché se no De Luca si incazza. Guarda, lo ripeto: condono. E dai, su. Vabbè, questo succede in Campania. Però noi abbiamo invitato un ospite per una tematica che è simile di fatto, perché attiene alla stessa materia. È un onorevole, è l'onorevole Samuele Segoni di Alternativa Libera Possibile, tra l'altro fa parte della Commissione Ambiente. Buongiorno onorevole, grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti. Perché allora c'è un testo unificato sulle aree protette di cui si discute. In questo testo l'accusa sul Fatto Quotidiano è stata messa in maniera nero su bianco a dire: attenzione, c'è un grave errore, perché in questo testo, per farla in estrema sintesi, si dà nuovamente la possibilità ai comuni di decidere le leve decisionali sulle demolizioni, per cui dovranno decidere le giunte comunali, che vengono elette esposte alle pressioni del voto, cioè di chi ha fatto le case abusive, e quindi chiedere di non abbatterle, ma di fare quello che ha fatto De Luca, cioè come il non grillo del blog, anche lui un non condono, ma condono. Insomma, questa legge è pericolosa, caro onorevole Segoni? Sì, esatto, innanzitutto va puntualizzato che questo stato di fatto che lei ha riassunto molto bene è nascosto in delle pieghe veramente complicatissime e aggrovigliate, perché c'è un rimando di leggi come sempre nelle leggi italiane, come sempre, no, perché inizialmente devo ammettere si è fatto un po' girare la testa. Ma ecco, ma secondo lei, perché questo è quello che anche noi abbiamo letto sui giornali, però le chiedo un'opinione da parlamentare, sì, è possibile che nell'altra Camera, dove il testo è già stato votato, davvero i colleghi dell'altra Camera non abbiano capito che la manina, per così dire, furbesca di un qualche funzionario particolarmente interessato a questa casa da interessi esterni, evidentemente, ha formulato questa possibilità senza che i parlamentari dell'altra Camera, i servizi legislativi dell'altra Camera se ne accorgessero? Secondo lei è credibile davvero? Guardi, io non mi stupisco più di niente, ecco. Quindi sì, potrebbe anche benissimo essere, ecco. Cioè, come votare delle norme che riaprono alla possibilità di venire a patti con l'abusivismo senza che neanche il Parlamento, sì, perché, se ne renda perché conto? Perché davvero è molto nascosto. C'è un articolo in cui viene presa una legge del 91, dentro la quale c'è un rimando a una legge dell'85 e viene cambiato questo rimando a un decreto del Presidente della Repubblica del 2001, che se uno lo va a leggere dà il potere di dare il potere di decisionale comune, insomma. Esatto. Ma che, però c'è da dire che recentemente è stato modificato da un decreto legge del 2003 che invece lo dà ai prefetti. E praticamente fa decadere il potere prefettizio che aggira le pressioni elettorali degli abusivisti. Esatto, il punto è quello, quindi formalmente torna. Il problema è che noi ci siamo accorti che questo decreto legge del 2003 è stato dichiarato incostituzionale nel 2004, quindi decade, si ritorna alla forma precedente e quindi la forma precedente prevede il sindaco. Però io Segoni, una cosa effettivamente non si è capita, per carità, siamo in Italia e quindi sappiamo che ci sono sindaci che subiscono appunto le pressioni, poi chi ha una casa abusiva in un comune vota, no? Parliamoci chiaro, vota. Il punto è questo. Ecco, però no, certo, però dobbiamo quindi credere all'automatismo per cui un sindaco, che è un pubblico ufficiale, faccia gli interessi non del bene collettivo, ma gli interessi di chi lo ha votato, anche se è abusivo. Cioè, è un po' una missione di debolezza del sistema paese, secondo me, no? Cioè, dire perché un sindaco non potrebbe decidere in autonomia per il bene comune e invece deve decidere in base agli interessi degli abusivi che l'hanno votato. Questo rientra molto nel giudizio che ognuno di noi ha nella categoria umana e nella categoria politica. Io ho sentito nei vostri discorsi, facevate prima di alcuni amministratori locali, che quindi non erano zingieri. Comunque, anche se ci mettiamo nei panni di un sindaco, per carità, ce ne sono molti in Italia che hanno veramente a cuore il bene comune, sono comunque sottoposti a delle forti limitazioni. Pensiamo soltanto alle limitazioni economico-finanziarie, alle limitazioni di bilancio. A volte non è così semplice trovare fondi per demolire degli edifici. Con i pochi fondi che un comune ha a disposizione, a volte si può preferire fare altro. Vale, questo è uno dei motivi per cui De Luca anche dice: sapete cosa ha detto De Luca? Dovremmo forse comprare un'isola dell'Egeo per mettere tutti i materiali di risulta delle demolizioni. 70.000 case, però Oscar, sono tante, cioè i materiali di risulta sarebbero notevoli. Esatto. No, sì, però scusate, non è una giustificazione, ma no, però, lo è. Però invece De Luca lo è abilissimo, come sempre, a trasformare l'ultra paradossale in ciò che invece sembra reale, ultra reale. Usa questo argomento per dire: abusivisti, siate tanti, fate massa, perché così non vi toccheremo. Ricordatevi quando andate a votare. Capito? Il Corriere la mette qua. Così: gli abusivisti hanno ottenuto un segnale. Il segnale che chiamalo segnale. Però, secondo voi, cosa volete cambiare? Cioè, come invece che ai comuni, a chi dovrebbe essere demandato questo potere decisionale? Secondo noi dovrebbe essere in mano alle prefetture, che sono l'espressione sul territorio del potere centrale. Guardi, noi come Alternativa Libera siamo fermamente convinti che il potere non va allontanato dai territori. mentre recenti riforme sono andate in questa direzione, però ci sono alcune situazioni molto particolari, molto spinose come quelle dove è indubbiamente più opportuno avere un occhio che guarda e una mano che agisce, che è svincolata completamente dal potere, dai legami contingenti con un elettorato poi. Cerchiamo di capire, ci sono dei margini per cambiarla? Perché voglio dire, ci ha detto che era poi annidata in mezzo a... Sì, no, allora, questo gli emendamenti in commissione sono già stati chiusi e votati, questo ha ricevuto un parere negativo e quindi non l'ho neanche fatto mettere in votazione. E se noi avevamo proposto un emendamento per superare questo problema da noi individuato e ci riproverò quando ci sarà il passaggio in aula. Okay. E dove probabilmente gli emendamenti saranno contingentati, quindi saranno molto meno, non saranno centinaia come in commissione, quindi ci sarà, spero, più tempo per poterne discutere merito. Certo. Quindi questo sarà uno dei nostri strategici, diciamo, che presenteremo. Va bene, va bene. Noi intanto allora la ringraziamo, Samuele Segoni, deputato di Alternativa Libera Possibile, Commissione Ambiente. Vediamo un po', caro Oscar. Applausi. Ah no, ci dicono perché non dite il nome del magistrato, ma certo che lo diciamo, il magistrato non c'è. Amedeo Franco, che è colui che scrisse il verdetto Mediaset, esatto, che costò il seggio poi all'incandidabilità di Berlusconi a Palazzo Madama. Però ripeti, su tutti i giornali. Perché? C'è sempre il retropensiero, non dite il nome, non ce lo ricordavamo al momento. Ecco, Amedeo Franco, mamma mia. Nome noto perché poi è uscito con gli atti degli indagati. Certo, ma a proposito di indagini, scusa se oggi sono, forse rido un po' troppo, ma rido è una forma, capiscano gli ascoltatori, deliberata, no? Di ironia, eccetera. No, ma scusa, ma guarda, la cosa che mi ha fatto sganasciare è questa indagine della Procura di Roma ieri sui vertici passati di Finmeccanica, però i vertici importanti, c'è anche l'ex presidente Orsi e così via, perché scoprono che c'è una finanziaria di Finmeccanica, un organo, cioè una società controllata ma ufficiale, faceva parte prima di Finmeccanica, che adesso i magistrati travolgono a distanza di anni perché andava a fare evasione fiscale in Lussemburgo. E oltre a questo c'è anche un secondo filone di alcuni dirigenti che si intascavano alcuni dei soldi. Si parla di 135 milioni. Perché hai sorriso? Ho sorriso perché capisci che se a giudicare rapinoso il prelievo fiscale di Stato è per prima una delle grandi società pubbliche e per questo è Lussemburgo, capisci che come contribuente mi scappa un sorriso, perché dico, beh, come vedi non si tratta della partita IVA, ecco, cioè stiamo parlando di una delle più grandi società pubbliche, dai, per su questo, dai. Allora sentiamo Antonello che ci chiama dalla provincia di Catanzaro. Stiamo parlando di abusivismo, ma insomma diteci anche quello che volete sulle altre tematiche, noi abbiamo lanciato questo tema. Antonello, buongiorno. Buongiorno, registro con soddisfazione che siete tra i pochi che in Italia dibattete questo tema dell'abusivismo, che nel sud, in particolare in Calabria, è un problema molto forte, nel senso che rappresenta in alcune aree come la nostra almeno il 50% delle case costruite, se non di più. Accidenti, e questo vuol dire devastazione irreversibile dell'ambiente. Ma è vero, vero, scusi Antonello, che c'è questa usanza di dire tu la casa costruiscila ma non finirla mai, non finirla mai, perché se la finisci lasciala sempre in costruzione, nessuno ti può fare niente se è abusivo. Io credo che non si finisca anche per esiguità delle risorse, nel senso che vengono realizzati due o tre piani e poi non vengono ultimate, che devo dire, le scale interne oppure anche l'esterno, quelle colonne orribili di cemento e ferro che escono fuori e che sono un biglietto da visita per il nostro straordinario ambiente deleterio. Io volevo segnalare però la grande ipocrisia della legislazione italiana o comunque del sistema. Perché che cosa succede? È vero che i sindaci non eseguono le demolizioni, ma i sindaci politicamente sono troppo deboli per farlo, sia per le conseguenze elettorali che temono ovviamente, ma anche per la reazione dei cittadini. Nel senso che qui... Noi, guardi, abbiamo parlato, cioè ci sono dei stati di sindaci, Alicata c'è un sindaco che è finito sotto scorta, gli hanno bruciato la macchina. Esattamente, ma anche qui a Lamezia Terme è successo qualche anno fa, per delle demolizioni che sono state seguite dalla procura. Ora, volevo dire solo questo aspetto, secondo me molto significativo. Anche quando è la procura che sporadicamente esegue le demolizioni in esecuzione di sentenze penali, i costi. Dovete capire che ogni fabbricato abusivo che viene di due piani, che viene demolito, costa 100.000 euro almeno, non tanto per la demolizione quanto per lo smaltimento. Ma guardi che è il discorso che fa De Luca, eh. Dove mettiamo i materiali di risulta, quanto ci costa, e quindi no, ma Antonello, so che Oscar sorride, ma è il ragionamento. Antonello, lei ci dice costa tutto, e quindi perché ci potrebbero essere altre soluzioni. Il punto è che questi costi vengono addebitati non allo Stato in sé, ma ai comuni, quindi ai cittadini. Sì, sì, questo è chiaro. No, Antonello, il problema dei costi c'è. È il gatto che si morde la coda. Non ne usciamo perché comunque lo Stato non riesce a veicolare un messaggio efficace nel tempo, chiunque governi, la destra, la sinistra, il sopra, il sotto, che l'abusivismo non è una strategia che paga, c'è poco da fare. A me non interessa la quantità di materiali, eccetera, eccetera. È come se io mi venisse qui a dire: ma signori, ma voi avete voglia di dire adesso le tasse sono alte, voi dite pagatele tutte, e la gente poi non lavora più. Se facesse questo ragionamento, che infatti non ho mai fatto, anche se molti me lo attribuiscono, cioè la famosa evasione di sopravvivenza, ne parlò Fassina alcuni due anni fa, ecco, voi mi direste insorgendo: tu sei per l'illegalità, e avreste a quel punto ragione. E non capisco però perché sull'abusivismo invece no. L'argomento però, guarda, vince è lo stato di necessità. Perché l'evasione fiscale di necessità, allora. Un no. ascoltatore via mail dice: e allora cosa proponi, visto che ci sono 70.000 edifici e diciamo 150.000 persone dentro? Cosa proponi, Oscar? Quindi siccome loro sono dentro... No, io l'abbattimento lo fa l'esercito, punto. Invece che fare le gare, perché il problema è che siamo pure costretti a fare le gare, perché altrimenti arriva l'ANAC, forse. Ho capito, con questo criterio siamo quindi finiti. Abbatterle. Io penso, ripeto, che il messaggio non può essere veicolato diversamente, ma non è colpa mia. Se davvero credete nella legalità, cari ascoltatori, o insorgete solo quando la legalità sono indagati i politici di averla violata, perché io talvolta ho il sospetto che sia così. Ma certo, il politico è della casta, ma poi siamo tutti politici quando ci conviene. Ecco. E allora, siccome secondo me hai detto una cosa, almeno io la condivido come una grande verità, magari molti pensano di no, cioè pensano che se lo fa il politico, scandalo assoluto, perché... Invece se lo facciamo ciascuno di noi io non credo proprio che debba essere questo il ragionamento. In ogni caso andiamo un attimo in pubblicità, poi riprendiamo da Giorgio, la provincia di Reggio Emilia, tanti ascoltatori su 24 mattino, attenti a noi due. L'industria che contestano Emiliano? Veramente era un pirla, non so come li chiamate. D'altra parte il renzismo ha portato questo tipo di rapporto all'interno del Partito Democratico, bisogna sopportarlo con grande pazienza. Caro Oscar, questo è Emiliano contestato a Milano, un pirla. So come li chiamate. Il renzismo, ormai siamo proprio a... Botte da orbi comunque. Botte da orbi, cioè... per carità, c'è una campagna per le primarie, quindi... C'è una campagna per le primarie. No, però voglio dire, ieri io assistevo al dibattito e a Toni del PD nel respingere la mozione di Lotti e mi veniva da ridere perché loro erano quelli, mi ricordo la dichiarazione di Andrea Romano per esempio, che trattavano la cosiddetta svolta garantista dei 5 Stelle per le indagata Raggi come se fosse una cosa, eccetera. Loro dicevano la stessa cosa, quindi non è populismo, cari ascoltatori, a me viene spesso le coincidenze dei toni contrapposte e autosmententi di gente che per polemica contro altri avversari politici hanno detto l'opposto e poi dicono la stessa cosa pretendendo di essere nel giusto, perché la cosa riguarda un loro amico, un loro compagno del partito, mi sembra proprio il vero copione della politica italiana. E mi dispiace dirlo perché così sembra una critica ingiustificata, ma guardate, ieri il dibattito su Lotti mi ha veramente colpito, per così dire. Ma infatti Lotti, questo nel retroscena dei giornali, dicono che sia soprattutto arrabbiato non tanto e non solo col 5 Stelle, ci sta, ma più con i Gotor, esatto, e con i Bersani, che non hanno fatto quadrato, per così dire. Sì, anzi, che considera addirittura, questa è la frase attribuita a lui, subalterni a Grillo. Insomma, botte da orbi, ne vedremo. Però Giorgio dalla provincia di Reggio Emilia ci chiama, credo, sul tema abusivismo. Ecco, Giorgio. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Buongiorno. No, io volevo solo segnalare una cosa, far passare il fatto che non si possono buttare giù le case perché poi costerebbe molto smaltire il tutto, mm-hmm, è un controsenso, perché dal momento che le case vengono poi regolarizzate diventano di proprietà del comune e automaticamente tutte le i proprietari che diventano regolari ne chiedono poi l'allacciamento del gas, della luce, le ristrutturazioni, sì, tutte quelle, sì, cose lì. Quindi il costo che credo abbiano già, perché non voglio pensare, sì, che... No, se sono abusive non possono avere gli allacciamenti, non possono avere tutta la regolamentazione. Ma, sì, a norma di regola, non credo che ci siano, come ci ha detto il nostro amico in Calabria, 50% di case senza l'allacciamento del gas e la luce. Direi di no, direi di no. Direi di no. Poi bisognerebbe capire come fanno ad avere questi allacci, però prego Giorgio. Sono allacciamenti volanti, sono fuori legge. Allacciamenti volanti, diciamo. Sono quelle cose che si sanno e si dicono. Il problema di fondo è che se fa pensare il fatto che uno fa una casa, mette due fondamenta, ci va a abitare dentro, poi dopo gliela condonano, poi la finisce a spese dello Stato e del Comune. A questo punto una spesa c'è sempre, sì, e non si può continuare a far così, se no tutto ogni fa quel che gli pare. No, ma è chiaro, ma lei da un punto di vista siamo tutti d'accordo, non fa una grinza, no, Oscar, il ragionamento del nostro Giorgio. Devo dire, dopo tu mi guardi, però sembra siamo minoranza perdente. No, ma sembra che io difenda e non difendo minimamente l'abusivismo e il condono, però porsi nell'ottica di uno che dice va bene, ci sono 70.000 case, che faccio? Cioè le abbatto tutte, che succede poi? Cioè è una questione dall'oggi al domani, che faccio di fronte alle conseguenze che paga chi ha violato la legge sapendolo? Bene, io chiedo purtroppo la non punibilità dei reati fiscali per 5 anni, per la stessa cosa. No, anche in quel caso, sai, pagano dei nomi e dei cognomi della gente. Ma è chiaro che... Naturalmente è una proposta, non lo sto chiedendo. Però dico che la domanda, ma che ci poniamo la questione, ma la giustizia si abbatte sugli esseri umani e su chi si deve abbattere? E il problema pratico c'è. Comunque, vogliamo chiamare in causa un altro nostro ospite, caro Oscar, perché ti ha colpito qualche giorno fa a sapere, legge credo sul Messaggero locale, sì, che sì, sta per nascere una nuova professione, perché noi in Italia... No, c'è già! Sì, ma no, codificata! Sta per essere tu. Codificata. Esatto. Sapete quando andate, non so, per Roma, per le grandi città, dove ci sono fuori dai ristoranti quelli che ti fanno i butta dentro, i butta dentro. Vieni qua, hai mangiato... Hai fame, lo vedo che hai fame, ma qua te sfamiamo noi... Agli stranieri magari con due parole in inglese. No, sempre così. Have lunch, have lunch. Cioè quelli che cercano di procacciare i clienti. Com'è che li hanno chiamati? Gli acchiappini. Noi vogliamo salutare Alfonso Celotto, che è in treno, speriamo che regga la linea. Alfonso Celotto, il suo alter ego Ciro Amendola, autori del libro Non ci credo ma è vero, storie di ordinaria burocrazia. Piacere. Eccoci qua, Celotto, l'uomo che vive ci spiega la burocrazia. Ma com'è possibile, Celotto, che non abbiamo creato un albo, l'ordine, un ordine, degli attacchini, un'abilitazione, una licenza? Ma l'ordinamento amministrativo rivela una falla. Ma no, ma certo, perché la pretesa è dover disciplinare qualsiasi cosa. Questa è la follia dello Stato, che serve una regola, una norma, una legge su qualunque cosa. Noi abbiamo 31 albi professionali in Italia riconosciuti come ordini, 31, e poi tutta una serie di elenchi che vanno dai maestri di sci, le guide alpine, i maestri di tennis, e ovviamente è il segno del feudalesimo italiano, no? Come appena crei una piccola professione, una piccola attività, normiamo. Il corpo, il valvassore, il valvassino cerca la regola, no? Per tutelarsi, è incredibile. Ma è possibile che non ci sia l'ordine degli acchiappini, o almeno un'associazione degli acchiappini, una normativa che normi l'acchiappino? O su dunque, su via. Celotto, come è caduta la linea? È caduta la linea. Basta criticare la pubblica amministrazione, la sua elefantiasi normativa. La sua... Abbiamo 195.000 leggi in Italia. Quindi, e la vogliamo negare una agli acchiappini? Facciamola una pure per loro. Ma ho letto D'altra parte, noi ricordiamo che nel 2015 il Parlamento ha fatto la legge sulla giornata italiana del dono, la legge 110 del 2015. Del dono, sì. Sì, sì, il 4 ottobre di ogni anno una legge ha dovuto prevedere che noi dobbiamo essere solidali e gentili con tutti e quindi santificare il dono. Cioè io il 4 ottobre devo venire qui da Oscar con un regalo, certo, fatemi capire, certo. Non... per legge per legge, cioè, assicuro Celotto che mia moglie è prescrittiva, emana decreti attuativi sul 4 ottobre, cioè, per il rispetto finiamo in tribunale per legge. Esatto. Cioè, potete superare i compleanni, cari mariti, potete superare gli anniversari, ma il giorno del dono 4 ottobre per legge, che pensi che solo uno si inventava fede alla patria, anche la Repubblica ha detto dovete. Al di là degli scherzi, cioè il timore che veramente poi qualcuno Celotto dica: ma questi acchiappini come li normiamo? Dove li incanaliamo? Come li inquadriamo? Bisogna fare qualcosa, una norma, una legge. Eccolo lì. Vedi, che detto prescriva prima, le modalità. Dai, comunque insomma ci ha come sempre confermato Celotto sulle follie della pubblica amministrazione. Ma ho letto che guadagnano fino a 3.000 euro ai più bravi. E perché sono percentuale più nel metti una percentuale più sul conto? Più non so, mi percentuale sul conto o percentuale su entrambi mi hanno spiegato. Cioè, perché l'articolo era anche interessante perché quantificava, strizzando l'orecchio al fisco, dicendo se non li si regolarizza questi sono in nero, perché ovviamente poi questa è come sempre la cosa italiana, perché purtroppo se tu non entra nessuno, c'è una specie di minimo che però è di 3 euro l'ora, cioè se pensi che stiamo abrogando i voucher che sono 7,5 euro, in nero poi 3 euro l'ora, ovviamente, no? O con i senza voucher, contributi, no, so. Però invece quelli bravi, cioè quelli seduttivi con le turiste che insomma riescono a mandare tanto dentro, poi dentro c'è chi becca i soldi per quanto poi anche consumano, però anche lui ha diritto a una percentuale sia sul numero di quelli che entrano che sul consumo totale, quindi c'è gente, almeno secondo l'articolo, che arriva a 5.000 euro al mese. Lo so, Maria Antonietta ci dice: non ci credo, gli acchiappini non ce la faremo mai. No, esatto, ma non è vero, invece vedi, gli acchiappini l'idea. Sono agenti di commercio. Sono agenti. Un altro, quindi quelli che fanno la pubblicità anche da noi, sì, con quella fantastica cerca agenti di commercio. Però vedi, non esiste la figura di informatico, ma se esistesse quella di acchiappino non mi stupirei. Va bene, vediamo un po' il nostro Marco da Milano che cosa ci vuole dire. Marco, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno Oscar. Io volevo ricollegarmi a quanto detto da quella persona che ha chiamato dalla Lamezia Terme, sì, dicendo sul tema dell'abusivismo, e cioè dicendo che i costi purtroppo adesso li deve sostenere il comune. Però torniamo un attimo a un sistema un po' aziendale, no? Di responsabilità, ma da dove è partito il tutto? Dal fatto che qualcuno non ha controllato sull'abusivismo. Sì, quindi bravo, qualcuno certo non ha controllato. Bravo. Adesso i costi sono di tutti. Bravo. Scusate, il principio, applichiamo il principio comunista dove le perdite sono di tutti e i benefici sono di pochi. Applausi. Attenzione, applausi. Io sono uno che abita a Milano, non sono un leghista fervente, ma sono un liberale, quindi voglio dipanare eventuali idee, no? Che posso avere politicamente, ma non è corretto, esatto. Ci devono essere delle responsabilità e delle conseguenze. Ma che non sia corretto lo sappiamo, però cosa facciamo? Andiamo a prendere gli amministratori di 30 anni fa che hanno autorizzato queste cose. Noi dobbiamo identificarli e colpirli politicamente, amministrativamente e finanziariamente. Ma magari c'hanno 80 come si fa anni, col cittadino magari sono comune morti. Ma scusami Alessandro, i cittadini comuni così funziona, ma io dico, pagano va bene, oltre ma cosa fai? Un civile, un penale in amministrazione e gli fai pagare? No, perché nel tempo se iniziamo a farlo lo faremo per coloro che l'hanno fatto nella legislatura precedente. Ecco, però si inizia con quelli, sì, e i dirigenti amministrativi sotto quelle giunte che hanno sottoscritto e taciuto, anche loro devono rispondere di queste robe qua. Questo in un paese che crede di dover applicare le sue leggi, altrimenti, ripeto, è un paese in cui le leggi si disapplicano a seconda del ruolo pubblico e dei voti che esprimono. E quindi ogni partito, se è toccato un proprio, poi insulta gli altri che gli dicono che in questo caso bisogna procedere, tranne il fatto fare la stessa cosa se invece toccate un altro. Come vedi, stiamo parlando di vicende, ma tutto si tiene, dal caso Lotti all'abusivismo, alla battuta di De Luca. Io mi sa che vado a fare l'acchiappino. Una nuova professione, l'acchiappino. Beh, per fortuna che in Olanda, cari ascoltatori, avevamo ragione qui a Tentino 2 quando abbiamo detto accettiamo scommesse, ma non arriva né primo né fa il governo. Purtroppo ho ragione anche sull'Italia, perché le notizie sono che per l'ennesima volta la crisi è abissale della compagnia, e con tutto quello che ha pagato Pantalone, sia quando era di Stato, poi per il salvataggio ai privati con la cassa integrazione straordinaria che nessuno di voi in ascolto ha mai visto per tutti quegli anni per quell'ammontare. Eppure siamo di nuovo a tocchi, un'altra storia dell'eterno ritorno italiano. In ogni caso, noi ci fermiamo qui anche per oggi, ringraziando Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia, e che dire, ci ritroviamo domani. Sempre. Noi adesso andiamo alla cerimonia dell'innalzamento della bandiera bianca. Andiamo ad acchiappare un caffè. Va bene. Acchiappare un caffè.